viaggiare in questo mondo non è facile. È più semplice restare dietro all'albero a guardare il mondo che ci sfida. Puoi pensare alla tua vita per un attimo, non distruggerla cercando di convincerti che fa schifo il mondo che ci ammira. Sono stato